Check 1 2, mic check 1 2, mic check 1 2, microphone check, check 1 2. Sound check, il suono della musica. Di Gegé Telesforo. Siamo pronti per il sound check di Radio 24. Buonasera a tutti voi e buona domenica da Gegé Telesforo, e buona domenica anche a un mio amico, compagno di tante avventure. Ne abbiamo fatte e ancora ne faremo diversi. Abbiamo molti concerti insieme, soprattutto per la prossima estate, reduce da un'esperienza meravigliosa, molto interessante e anche molto toccante, ma ne parleremo con lui in questa puntata del sound check dedicata al jazz italiano. Ladies and gentlemen, put your hands together. Fratello Joseph Bass in persona, con tanto di contrabbasso a seguito. Buonasera a tutti e pace e swing. Sì, il contrabbasso oggi lo teniamo a riposo, si è appena arrivato e ha anche fatto un bel pisolino qui nello studio, perché so che hai molti chilometri sulle spalle, certo. Mio caro fratello Joseph, sono contento di vederti, ti vedo in forma. Grazie Gigi, tu lo sai, io appena posso vengo a trovarti con molto piacere, anche perché tu hai delle doti nascoste culinarie tra le migliori al mondo. Grazie, beh, ti ho fatto un bel pacchero, diciamo, no, certo. Diciamo la verità. Allora, fratello Joseph Bassi, approfitto della tua presenza, della tua figura e anche della tua competenza in materia, perché oggi vorrei parlare un po' di jazz italiano, ascoltando con te, presentando agli amici di Radio 24, alcuni amici protagonisti del jazz italiano, e vorrei iniziare subito con questo bellissimo album intitolato My Songbook. Protagonista il suo pianoforte e soprattutto la sua vena compositiva, ovvero quella di Enrico Pierannunzi, nostro amico, grande maestro del jazz italiano, musicista che ha già raccontato personalmente qui al Soundcheck la sua storia di giovane pianista classico, perché ha fatto gli studi classici e si sente dal tocco, poi appassionato di jazz, oggi una stella del jazz italiano nel mondo. Album nuovo intitolato My Songbook, le sue composizioni interpretate dalla voce di Simona Severini, che approda così subito con un cavallo di razza a fare musica. Beh, direi che suonare con Enrico è il sogno costante di tutti i musicisti italiani. Mm. E questa giovanissima cantante talentuosa sicuramente ha trovato la sua strada con questo enorme pianista. Sì, anche una bella responsabilità per Simona, che è una brava cantante di jazz, ha i suoi studi sulle spalle, una bella responsabilità quella di interpretare composizioni che sono nate come brani strumentali, poi sono stati messi i testi, e quindi in questo songbook le melodie, io potrei dire in questo caso le canzoni di Pierannunzi, che ha comunque un senso della melodia eccezionale, quindi brani cantabili assolutamente. Incredibile. Io ebbi la fortuna di suonare con Enrico molta della sua musica in un quartetto inedito. È stato davvero un sogno. Ecco, allora, il brano che io vorrei far ascoltare agli amici di Radio 24 è proprio quello che apre questo songbook, si intitola My Heart in a Song, quindi il mio cuore in una canzone, in una melodia, interpretata da Simona Severini, ma brano supportato anche dall'andamento ritmico di giovani talentuosi come i nostri amici Nicola Angelucci alla batteria, Luca Bulgarelli al contrabbasso, e poi l'album viene completato dalla presenza di due solisti eccellenti nelle varie tracce, come Rosario Giuliani e Francesco Lento, trombettista che si sta facendo conoscere nel nostro paese e anche all'estero. Direi di dare il via alla musica del soundcheck di questa sera con Enrico Pierannunzi, My Songbook, My Heart in a Song. È stato il critico musicale, giornalista, un veterano del giornalismo jazz italiano, Franco Faenz, a sottoporre all'attenzione di Enrico Pierannunzi la voce di Simona Severini, che oggi infatti si ritrova come interprete di My Songbook. Questo è il titolo dell'album di Enrico Pierannunzi, con tutte le sue melodie realizzate vocalmente da Simona e da questo bellissimo organico italiano. Questo è il soundcheck di Radio 24, si parla di jazz, oggi di jazz italiano, con la presenza del nostro Joseph Bassi, che è tornato a trovarci. Insomma, è un bel paese per fare musica, il nostro, però ogni tanto ci dimentichiamo che dobbiamo anche viaggiare. Mi piacerebbe vedere un po' di più i dischi italiani in giro all'estero. Certo, troviamo nei cartelloni dei grandi festival anche gli artisti italiani, è più complicato invece da un punto di vista discografico. Che cosa manca a noi italiani per esportare le nostre produzioni? Probabilmente manca chi davvero crede nell'arte e nella musica dei musicisti italiani, ossia la figura di un vero produttore, di un manager del musicista, che lo segua in tutte le sue idee, che possa coadiuvarlo nello sviluppo delle sue idee artistiche e poi che sappia fare il lavoro di pubblicità, per esempio. Spesso e volentieri lo facciamo noi musicisti direttamente. Quindi, che mi vuoi dire? Che siamo bravi a produrle e un po' meno a promuoverle, le nostre cose? Beh, certo, noi cresciamo tutta la vita con gli strumenti in mano e non abbiamo tempo per studiare l'arte della pubblicità. Fortunatamente però internet adesso aiuta anche i musicisti, che non trovando un'etichetta o un producer, come dici tu, possono promuovere la loro arte, la loro musica personalmente da casa. Certo, anche Facebook per esempio è uno strumento fondamentale per crearsi il pubblico uno per uno proprio. Eh sì, il famoso network di strada, certo. Quello col quale poi si è evoluto e si è diffuso il jazz, la musica jazz. C'è però un artista che noi conosciamo bene e ci abbiamo suonato anche insieme una volta, un artista americano, sassofonista americano, bravo compositore, appassionato di cibo, e credo che proprio per questo motivo ha capito che il suo paese non era l'America, ma era l'Italia. E questo signore si chiama Michael Rosen. Io ho conosciuto Michael Rosen molti, molti anni fa, partecipando ad alcuni programmi radiofonici di Fiorello, perché Fiorello ha sempre avuto il buon gusto di presentarsi in radio e in televisione con degli organici musicali importanti, con le big band, e nell'organico, proprio nella sezione dei sassofoni, c'era Michael Rosen. L'ho conosciuto quindi con Fiorello, e approfitto anche per salutarlo, il nostro Rosario. E Michael, come dire, perché secondo te ha scelto il nostro paese? Per il cibo soltanto? No, secondo me no. Sicuramente perché ci sono artisti e musicisti fantastici, poliedrici, con grandi idee. La qualità della vita è impagabile. C'è da dire che anche le cose belle dell'Italia sono fantastiche, ti cambiano la vita. Si conoscono, le conosciamo. Sì. Però Michael che cosa ha fatto? Per registrare il nuovo album si è spostato a New York, quindi è tornato a casa per lavorare, registrare il nuovo album, e ha fatto bene, perché ha portato a casa una bellissima produzione con composizioni originali, incontrando al Bunker Studio Lagerlund alla chitarra, Ralph Alessi alla tromba, Domenico Sanna al pianoforte, sempre più presente lì a New York, Matt Penman al contrabbasso e Bill Stewart alla batteria. L'album si intitola Sweet 17. Michael Rosen al soundcheck. Soundcheck. Il suono della musica. Doing word fearless on my breath. pronti per la seconda parte del soundcheck dopo l'informazione e anche dopo questa bella interpretazione di Teardrop, un vecchio successo dei Massive Attack, per la voce di una cantante siciliana, credo palermitana, chiamata Chiara Minaldi, che ha realizzato un po' di tempo fa questo album dal titolo Intimate, con la complicità di un trio guidato dal pianista Mauro Schiavone, con Gabrio Bevilacqua al contrabbasso, Fabrizio Giambanco alla batteria. Parliamo di jazz, parliamo di jazz italiano col nostro Joseph Bassi, che ha avuto la fortuna di incontrare ottimi musicisti. Hai suonato con Enrico Pierannunzi, hai suonato con Michael Rosen, ma hai anche suonato moltissimo con Mauro Schiavone, partecipando a tournée di Francesco Cafiso in giro per il mondo. Ho suonato con Mauro per circa 3 anni e la cosa che mi ha stupito di questo enorme pianista è la sua infinita conoscenza della musica totale. Lui conosce tutto del jazz, standards e tutto della musica classica, perché prima di fare il jazzista è stato un concertista e lo è tuttora. Ed è un istrione proprio della musica. Si sente dal tocco, dire. Sì, un tocco. Cosa ne pensi del fatto che ormai da diverso tempo il jazz è entrato nei conservatori? Ti piace l'idea? Che cosa cambieresti se avessi la possibilità di modificare qualcosa nella didattica musicale istituzionale nel nostro paese? Beh, sicuramente la mia visione è molto attaccata al jazz e alla cultura del jazz. Per esempio, Mauro è un didatta di jazz incredibile, perché quando uno studente va da lui, sicuramente Mauro può insegnargli il blues, che è la matrice del jazz. Quello che purtroppo credo che non avvenga in toto, in tutti i conservatori, è che non ci siano insegnanti capaci di insegnare il blues. E questa è la cosa, secondo me, un pochino che dovrebbe farci riflettere. Sarei un pochino più accorto e attento nella selezione degli insegnanti, che possano dare con certezza il massimo agli allievi che vogliono imparare questa musica. Joseph Bassi, nostro ospite, ci devi ancora raccontare la bellissima e toccante esperienza che hai fatto un po' di tempo fa. Non so se la vuoi raccontare subito, perché hai fatto questa cosa veramente strana, esattamente nel giorno della memoria. Mi sono trovato casualmente per seguire le avventure di un mio carissimo amico Alessandro Caponio, che da Bari è partito in bicicletta per raggiungere Auschwitz, e io non mi sono mai capacitato di questa sua scelta, sicché un giorno ho comprato un biglietto. E aveva una missione: arrivare ad Auschwitz nel giorno della memoria e piantare che cosa? Piantare un alberello di ulivo nostrano, pugliese, come simbolo della pace. Lì ad Auschwitz? Lì ad Auschwitz, esattamente. Lasciarlo proprio lì come simbolo di pace, come testimonianza. Io mi sono appassionato, l'ho seguito. Non hai portato un altro albero di ulivo, bensì il tuo contrabbasso. Non soltanto il contrabbasso, ma anche tutti i generi alimentari pugliesi, perché dovevamo organizzare una grande festa. Quindi sono stato costretto a visitare Auschwitz. Posso garantirvi che è una delle esperienze più belle, profonde, dell'esistenza umana, della nostra vita, insomma. Allora, Joseph Bassi, è arrivato il momento di presentare un altro disco recente, un'altra pubblicazione italiana, questa Personi Music, ma non jazz, classical, perché la protagonista di questo disco è una vocalist di jazz appassionata di R&B, è nata proprio con la passione per Aretha Franklin, Stevie Wonder, canta jazz, didatta, anche laureata in informatica. Vi sto parlando della brava Cinzia Tedesco, che con Stefano Sabatini, Giovanna Famulari al violoncello, Luca Pirozzi al contrabbasso e suo marito Pietro Iodice alla batteria, realizza la sua visione di alcuni brani di Giuseppe Verdi rivisitati in chiave jazzistica. Devo dire un'operazione complicata, forse più da raccontare che da ascoltare, perché da ascoltare l'album è molto piacevole. Si intitola Verdi's Mood, From Giuseppe Verdi to Jazz, Cinzia Tedesco al soundcheck, con un'aria famosissima, La donna è mobile. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Daydream, praticamente il sogno ad occhi aperti di Duke Ellington e Billy Strayhorn nella versione di fratello Joseph Bassi, nostro ospite, e Domenico Sanna, da un album intitolato Just You, Just Me, che praticamente è il volume 1, perché presto ne arriverà un altro, giusto? Esattamente, tra un anno uscirà il nostro secondo disco e poi di lì ogni anno fino a quando la nostra carriera durerà, insomma. Ci siamo fatti questa bella promessa. Ve lo auguro. Beh, Daydream, devo dire, uno dei miei brani preferiti di questo album. Quando sentimmo l'esigenza di registrare Daydream, volevamo appunto presentare questo sogno che da tanto tempo ci univa. Un sogno nato sui palcoscenici durante le prove e il soundcheck con il tuo quintetto. È simpatico perché scoprimmo che il più celebre duo Kenny Barron e Dave Holland avevano registrato Daydream e quindi mi ricordo io e Domenico andammo a sentire la loro versione, molto molto più lenta, fantastica ovviamente, ma con un pizzico di, sai, orgoglio nostrano. Fummo contenti di nominare la nostra versione, molto più bella. Quindi. Ah sì, eh? Sì. Beh, a me è piaciuta molto. Andrò a ripassare anche quella di Kenny Barron e Dave Holland. Questo è il Soundcheck Radio 24, siamo quasi in chiusura, abbiamo parlato di jazz italiano, abbiamo ascoltato alcune produzioni, ne vengono fuori un sacco di produzioni italiane, anche di artisti giovanissimi. Io mi vorrei scusare perché non posso passare tutto e dare soddisfazione a tutti, anche perché molti sono amici. La verità è che ci vorrebbero nel nostro paese forse più programmi a proporre la nostra musica, jazz, ma anche musica classica, world music, solo che qui nelle radio si continua a suonare sempre la stessa roba. Beh, anche io mi unisco a un tuo grazie a Radio 24, perché intanto dà lo spazio a questa grande forma di arte. Sì, sarebbe auspicabile che tutte le grandi radio, come anche si può fare nessuna pubblicità, però sì, ecco. La puoi fare, certo. Ma è inutile fare nomi, certo. Abbiamo capito, certo. No? Nei network, certo. Si suona il pop, solo che ogni tanto anche in orari particolari potrebbero avere un'apertura maggiore nei confronti dell'arte e della musica. Allora chiudiamo con un giovane artista italiano, pianista ormai accreditato, però insomma credo che non abbia ancora 30 anni, Enrico Zanisi, pianista diplomato al conservatorio, si sente dal tocco, un tocco da musicista classico, ma la creatività tipica del musicista di jazz, che affronta un piano solo con questo album dal titolo Piano Tales per Camp Jazz. Enrico Zanisi ci propone una sua composizione, Uma Historia, e con lui chiudiamo il soundcheck. Io vi do appuntamento a sabato prossimo, sempre soltanto su Radio 24, ringraziando e abbracciando con tutto lo swing possibile mio fratello Joseph Bassi, con il quale ci rivedremo il 30 di aprile in occasione dell'International Jazz Day per una bella suonata. Te lo ricordi? Sì, hai preso certamente, nota. Bene, saremo al Chorus Live lì a Viale della Conciliazione, a un passo dal Vaticano, lì dove si trova l'ingresso proprio dell'auditorium della Conciliazione. C'è questo club fantastico e faremo musica per festeggiare la nostra passione per il jazz. A tutti voi buonasera, buona settimana e buona musica da Gigi Telesforo e fratello Joseph Bassi. Buonasera a tutti, grazie.